Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il concerto l'abbiamo comunque seguito dal backstage, che è perfino meglio che vederlo dagli spalti dove tutto è lontano. Certo, non percepisci l'intero palco, ma ti godi la musica e vivi dall'interno tutto lo spettacolo. Bono era vicino e mentre camminavamo ci indicava e suggeriva a tutti di non smettere mai di credere ai propri sogni e di non cedere mai nelle proprie convinzioni. E noi eravamo il simbolo di quella resistenza. Sono Claudio, ho 39 anni, vivo a Solaro, provincia di Milano. Sono sposato da 3 splendidi anni con Gilda. Lavoro come funzionario contabile in un ente pubblico. Voi siete qui l'unico programma che non sente la crisi, non sente la crisi economica, non sente la crisi respiratoria e nemmeno quella sentimentale. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it nel secondo giorno dei Radio Days. Oggi si parla di incontrare i propri miti ed esserne veramente delusi. E voi direte: cosa c'entra con la crisi? Beh, ha a che fare in qualche modo con la crisi. Quando si mettono in crisi i propri miti e i propri idoli, succede soprattutto quando li si incontra. Avete presente, voi li guardate dal poster che avete in camera, no? Io avete in camera un poster di Ligabue da quando siete dei ragazzi e quindi mi domando cosa ce l'abbiate ancora a fare in camera quel poster di Ligabue, però facciamo che ce l'avete ancora nella vostra camera. E poi l'ho incontrato in un bar a Correggio e un pochettino vi delude. 349-238-6666 oppure incontrate come Carlo Filippo Inzaghi ad un evento benefico chiamato A Cena con Inzaghi. Quindi si chiamava proprio A Cena con Inzaghi. Filippo Inzaghi è arrivato ed è andato via alle 21, poco prima dell'antipasto, firmando 3 autografi e facendosi fare forse un paio di foto. E bastava così poco per lasciare un buon ricordo. Saremmo stati 50 in tutto, da tutta la media, venuti a Piacenza per lui. Daniela, Michael Schumacher, l'ho visto a una festa in Ferrari, gli ho chiesto una foto, ho dato la macchina fotografica a uno che se l'ho offerto, ma l'ha tagliata, cioè gli avrà tagliato la testa, immagino. Allora ho chiesto a Schumacher un'altra foto, ancora, visto che il ragazzo l'aveva sbagliata. Lui non ha nemmeno risposto, ha fatto solo spallucce e se n'è andato come a dire: mi spiace per te, ma non è colpa mia. Da allora ho smesso di adorarlo e ho smesso pure di guardare le corse, finché lui non se n'è andato dalla Formula 1. Ecco, Daniela, un piccolo accorgimento: Schumacher c'è tornato in Formula 1, non fa proprio faville, però c'è tornato. C'è stato un periodo della mia adolescenza, direi, 17-18, non è adolescenza, era un po' dopo. C'è stato un periodo intorno ai 18-20 anni in cui il mio idolo più grande era Ivano Fossati. Lo so, c'è chi ha i poster degli Iron Maiden o dei Daft Punk o appunto diventa un punk di periferia, invece a me piaceva Ivano Fossati. D'altra parte ognuno ha il proprio percorso. E certo, erano gli anni in cui lui ancora non annunciava che non faceva più concerti e non lo annunciava in TV, proprio in corrispondenza dell'uscita del suo ultimo libro. Era un altro periodo. Insomma, in quell'estate, nell'estate del credo 93-94, scopro che Ivano Fossati è presente a un festival di cinema su un'isola della Sardegna. Esatto. E lo scopro in questo modo, proprio, con un pezzo come questo. E allora prendo la mia macchina con la mia fidanzata e ci vado. Arrivo su quest'isoletta della Sardegna che si chiama Tavolara e scopro che Ivano Fossati sta parlando su una specie di balconcino insieme ad Alessandro Baricco. Mia banda suona il rock. Non stava suonando, stavano semplicemente chiacchierando. E allora io insieme alla mia fidanzata, cioè ho obbligato la mia fidanzata dell'epoca a stare sotto il balcone ad ascoltare quello che diceva, insieme ad Alessandro Baricco. Non ricordo che cosa dicevano, ricordo solo che a un certo punto, mentre fumava una sigaretta, Ivano Fossati l'ha scenerata in testa alla mia fidanzata. Non è piaciuto a lei, non è piaciuto tanto neanche a me, però di fatto quella è stata veramente un terribile incontro con un mito di allora. Poi ho continuato a seguirlo, però diciamo un pochettino l'opinione su di lui era cambiata. 349-238-6666 oppure sul profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui. Dove avete incontrato un vostro mito e perché vi ha deluso? La storia di oggi è la storia di Claudio, che è andato vicino a un suo mito, ci è andato veramente a tanto così e a quanto pare non ne è stato deluso. Come ci sono finito sul palco di un concerto storico insieme ai miti di una vita? È difficile spiegarlo a parole. È difficile soprattutto descrivere le emozioni che ho provato in quei 200 passi che ho fatto con le gambe tremanti sul palco degli U2. Era il tour del 2009, quello che girava gli stadi. quello che girava con un palcoscenico gigantesco a forma di ragno e chissà cos'altro, con una lunghissima passerella rotonda che aggirava tutta la struttura sulla quale Bono si esibiva come sempre alla grandissima. A un certo punto era previsto che alcuni ragazzi, tra cui io, uscissero a camminare lentamente portando sul viso la maschera di una donna coraggiosa e ingiustamente perseguitata, San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. Ho visto 4 concerti, compreso questo. Il primo risale a lontano 1993 e la mia passione per gli U2 viene da lontano, perché comunque è da quando ho 14 anni che li ascolto e che mi accompagnano un po' nelle fasi della vita. Comunque il più bello è chiaramente questo, in cui ho avuto una parte, anche se un po' marginale, da protagonista. Tutto era iniziato con una mail da un tale Weldon Kennedy di One. One è un'organizzazione benefica fondata da Bono che attiva in tutto il mondo e si pone come obiettivo la lotta all'estrema povertà nei paesi in via di sviluppo. La mail era scritta in inglese ed era intitolata Volunteering at the U2 Show in Milan. L'avevo ricevuta qualche settimana prima del concerto, a cui non avevo in mente di andare, un po' perché sarebbe stato il quarto concerto degli U2 della mia vita, e il primo risaliva a quasi 20 anni prima, nel lontano 93. E un po' perché la caccia al biglietto era molto complicata, come spesso accade in questi casi. Costava troppo ed era pure esaurito. Io stavo per cancellare la mail, come decine di altre inutili mail di spam che arrivano tutti i santi giorni, e invece, anche se con poca convinzione, l'ho aperta. Invitava a dare la disponibilità per una giornata di volontariato in occasione delle 2 serate di San Siro, specificando che non sarebbe stata una free entry per lo show. Anche se poi lo è stata, con mia grande sorpresa. Beh, ho pensato che poteva essere un'occasione che non mi sarebbe più ricapitata per stare vicino ai miei idoli. Quindi ho risposto subito dando la mia disponibilità. E la risposta rapidissima mi comunicava di presentarmi alle 12:30 di fronte all'ingresso numero 1 dello stadio Meazza di San Siro. E così ho fatto. Mi sono trovato insieme ad altri 20 compagni di avventura agli ordini di un ragazzotto inglese a montare un gazebo e a tampinare gli spettatori appena entrati dai cancelli dello stadio per chiedergli di digitare sul laptop la propria mail e iscriversi così a One. Con la giornata abbiamo raccolto circa 1600 iscrizioni. È stato un lavoraccio, sempre in piedi, sotto il sole di luglio, ma alla fine abbiamo avuto la giusta ricompensa. È stata inaspettata, insomma, quindi come tutte le cose inaspettate è doppiamente positiva, insomma, perché nessuno se l'aspettava del gruppo che si era formato un po' casualmente quella giornata, ed è stata una situazione del tutto particolare, quindi è comunque indimenticabile, ecco, sotto un certo punto di vista. Una ragazza a un certo punto ci ha radunati e ha usato parole che non ricordo perfettamente, ma il cui senso era: questa sera voi non assisterete allo show perché voi sarete parte dello show. E poi ci ha spiegato cosa avremmo dovuto fare. Avremmo dovuto semplicemente camminare a una decina di passi l'uno dall'altro mentre la band suonava Walk On, che appunto significa continua a camminare, e che è dedicata proprio a lei, a quella donna eroica, a San Suu Kyi, che ha passato 15 anni di prigionia per non essersi piegata al volere del regime birmano. Il concerto lo abbiamo comunque seguito dal backstage, che è perfino meglio che vederlo dagli spalti dove tutto è lontano. Sì, non percepisci l'intero palco, ma ti godi la musica e vivi dall'interno lo spettacolo. Bono era vicinissimo e mentre camminavamo ci indicava e suggeriva a tutti di non smettere mai di credere ai propri sogni e di non cedere mai nelle proprie convinzioni. E noi eravamo il simbolo di quella resistenza. E ci sentivamo tutti incredibilmente fieri. Sarò banale, ma dopo il giorno del mio matrimonio, quello è stato il giorno più bello della mia vita, per ora. Sentire l'entusiasmo di Claudio e di quando ha visto da vicino il suo idolo Bono Vox degli U2. È quasi contagioso. E un po' lo capisco. Lo capisco perché forse qualcuno di voi ricorderà i numeri che ho fatto l'anno scorso per andare a incontrare il mio mito tennistico che è Rafa Nadal. Anche io sono uno di quelli che, se ha un modello, che se ha un idolo, vorrebbe sedersi a cena con lui e cercare di conoscerlo il più possibile. Io sono uno che, se vede il proprio calciatore preferito in mezzo alla strada, non è che lo saluta, io proprio urlo il suo nome, mi sbraccio e grido tutta la gioia per averlo visto davvero. In parte si chiama entusiasmo, in parte si chiama follia, e un po' sono contento di avercele quando serve. Però è anche vero che non tutti si girano e ti sorridono, e qualcuno non è felice di essere un personaggio pubblico e un po' si ingrugnisce se la gente si comporta come me. Io personalmente ho deciso che me ne frego e continuo a comportarmi come mi va, che alla fine non si fa niente di male. E se incontro qualcuno che ammiro, lo saluto e magari provo anche a dirglielo. L'affetto e la stima non possono far male, in fondo, no? Però a volte stare troppo vicino a qualcuno che ammiri può essere pericoloso. Io in realtà, in fondo, non ho il culto della personalità per davvero, cioè non mi metterei a raccattare per terra le calze usate di Paul Auster e nemmeno vorrei seguirlo per vedere dove fa la spesa. Ecco, magari vorrei averlo come vicino di banco mentre scrive, perché vorrei vedere come lavora, però quello è diverso dal collezionare autografi. Come forse avrete capito, io sono tifoso dell'Inter e di eroi in questi anni ne ho avuti tanti, e uno di loro fu sicuramente Christian Vieri. Christian Vieri non è esattamente un intellettuale e non è nemmeno un genio, ma nel 2004, quando segnò il 100° gol dell'Inter, anzi nell'Inter, e si aggirava per il campo con una corona in testa che gli aveva fatto Marco Materazzi, io ero felice e quindi decisi che sarebbe diventato il mio preferito. Vieri era un po' un pazzo, però con un grande cuore. Era una specie di carro armato ma con un piede magico, che era proprio quello che io volevo vedere quando andavo allo stadio. Quindi figuratevi quando mi sono ritrovato in un bar in Corso Garibaldi a prendere un caffè con degli amici e scoprire che a un tavolo, seduto con degli altri, c'era lui, Christian Vieri. Era inverno e lui era abbastanza bardato, quindi non si riconosceva troppo. Poi il bello di Milano è che, in fondo, insomma, bello delle grandi città in realtà, in fondo puoi essere anche una persona famosa, ma non è che tutti vengono da te a chiederti un autografo o cose del genere. E allora io mi sono paralizzato e ho detto ai miei amici che loro potevano anche andare, ma io dovevo rimanere. Mi sono seduto a un tavolo poco lontano, mi sono messo ad osservarlo, tipo come se fossi allo zoo. Mi immaginavo che i suoi compagni di tavolo fossero amici suoi, eleganti, un po' sbruffoni. E invece no. L'età media era intorno ai 65 anni e sul tavolo non c'erano cocktail, c'erano dei bianchini, dei nani ghiacciati. Non era una riunione di agenti e procuratori o dirigenti, squadra di calcio, no, era una partita di scopa. E allora non mi è venuto neanche di andare a fargli le feste, mi sono messo di fianco a spiarli. Lui si è accorto che c'ero, ma non si è staccato dalla partita. Era perfettamente integrato nel gruppo dei pensionati che stava passando il pomeriggio. E allora ho pensato che, con tutte le sue sbruffonerie, quelle che mostrava in campo, forse anche Vieri aveva ogni tanto voglia di stare con qualcuno e fare altro. Ed era un po' combattuto tra tenerezza e tristezza. In fondo per me lui era un eroe, no? Era un gladiatore davanti agli 80.000 di San Siro. E vederlo giocare a scopa, curvo e anche un po' incupito davanti a un bicchiere di vino bianco, non era coerente con l'immagine dell'eroe che io applaudivo allo stadio. Non lo so, forse è un limite mio, però mi ha messo un po' di malinconia. E poi io continuavo a cercare il suo sguardo per mandargli un sorriso, per fargli capire che ero un suo tifoso, ma che ero talmente bravo da non disturbarlo mentre giocava con i suoi nuovi amici, i suoi nuovi amici o vecchi amici che fossero. Lui niente, invece. Mi guardava un po' di sbieco, non mi faceva nemmeno un sorriso, anzi, sembrava lo disturbassi. Ero vicino a lui e non c'erano le 80.000 persone che di solito lo applaudivano a San Siro, però non succedeva niente. Eravamo due estranei, e allora mi sono alzato e me ne sono andato, dispiaciuto di averlo incontrato. Domenica poi sono andato a vedere la partita e lui era in campo, forte, veloce, coraggioso, come sempre, e io l'ho applaudito. Oh, life is bigger. alla fine ognuno, diciamo, ha un po' gli idoli che si merita, le foto con gli idoli che si merita. Tiziano Bonini ha fermato Patti Smith in un parco a Roma e lei non voleva assolutamente farsi fotografare, infatti nella foto lei è imbronciata. Paolino Corleone invece ha una foto con Federica Panicucci, fatta non so quando, dove? A Senigallia probabilmente, a Senigallia, durante il karaoke di Fiorello. Ma di cosa stiamo parlando, Paolino? 349-238-6666 della serie messaggi a caso. Ogni tanto qualcuno scrive smart box sperando che gliela regaliamo, e invece solo in alcuni programmi. Marco da Vicenza, noi ti conosciamo bene, mandi un sacco di messaggi spesso a sproposito. Questo messaggio invece è magnifico. Io e il grande Alberto Camerini ci siamo presi a botte, era più ubriaco di me, che è quasi impossibile. Ma la domanda è: chi è Alberto Camerini? Cos'è, un cantante Alberto? È un famoso cantante Alberto. Adesso Marco da Vicenza ci manda altri messaggi, chiaramente di insulti come fa di solito. Però oggi si parla di questa roba qua, si parla di Bono Vox, si parla degli U2, si parla di camminare di fianco ai propri miti. Quindi Claudio sa raccontarcelo meglio di tutti. Pronto Claudio? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Io benone. Senti, tu non sei stato deluso da Bono in quell'occasione, anzi? No, penso si sia capito, insomma. Era abbastanza chiaro. Senti, quanti anni hai tu, Claudio? Io ho 39 quest'anno. 40. Ah, ma sei un uomo! Purtroppo si crede. No, purtroppo. No, nel senso che dall'entusiasmo del tuo racconto sembravi ancora un ragazzino, però... Ma quando si parla di U2 sono rimasto forse un po' ancora un ragazzino. Anche mia moglie spesso me lo rinfaccia, questo devo ammetterlo, insomma. Senti, perché probabilmente la sensazione è proprio quella, no? Che tu da quant'è che lo segui? Da 20 anni prima li dicevi? Sì, di più, perché io li ho conosciuti, insomma, quando ero adolescente, ecco, ma grazie a mio fratello che mi ha fatto trovare 2 LP. Quindi probabilmente la sensazione è che tenendoti attaccato a quei miti lì ti tengano un pochettino adolescente, no? Il primo, quando è partito il pezzo che Tiziano ha scelto dopo il tuo brano, sì, che era All I Want Is You, effettivamente mi sono ricordato di una sera in macchina con degli amici dopo un incidente, quindi la sensazione è esattamente quella lì. Senti, cosa fai nella vita tu, Claudio? Io lavoro come funzionario in un ente pubblico, sono un dipendente comunale. Ma sei al lavoro quindi adesso? No, adesso ho cambiato la pausa per stare un po' tranquillo, quindi sto facendo pausa adesso. Perché puoi sceglierti la pausa quando vuoi? Beh, sì, insomma, abbastanza. Cioè, basta che la faccio sempre nello stesso orario, però sì. Senti, hai fatto altre opere di volontariato nella tua vita o solo per gli U2? Ma no, volontariato di quel tipo forse solo quello, poi è stata abbastanza estemporanea. Poi ho fatto altro tipo di volontariato anche a livello politico, ma lasciamo perdere. Senti, hai figli? No, figli no. Però no. E hai altri miti oltre a Bono Vox, però? Ma no. Sì, adesso a livello sportivo avevo il mito del Milan, ma adesso mi è un po' passato. Ti è un po' passato? Sì. Senti, a livello musicale... Tu sai chi è Alberto Camerini, quindi? Ma l'ho sentito nominare, ma sinceramente non saprei dirti una canzone. Claudio, ti ringrazio moltissimo e grazie per la chiacchierata e per il tuo racconto. Grazie a te. Ciao, buona giornata, grazie. Io mi ricordo un pezzo in cui c'è Robin Williams, ospite dal David Letterman, che parla di Bono Vox e racconta di un episodio in cui lui sta a un certo punto a una delle sue convention che tiene per salvare il mondo e gli animali, si mette ad applaudire e dice... Ogni volta che batto le mani un elefante in Africa muore, e qualcuno dal fondo gli urla: allora smetti di applaudire! Voi siete qui. Nell'illustrazione di oggi che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui, c'è una, direi, è un'inquadratura soggettiva, nel senso che ci sono gli occhi di una persona avvolti dalla maschera, quindi come se da dietro alla maschera noi vedessimo cosa succede. C'è un palco, ci sono questi ragazzi che camminano uno dietro l'altro e sulla sinistra, anzi direi nell'occhio sinistro, in mezzo alle luci e alla folla, Bono Vox. Queste sono le illustrazioni che trovate appunto sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Vi ricordo che sul sito trovate anche il podcast del programma, se non riuscite ad ascoltarlo in diretta potete scaricarvelo da lì, oppure abbonarvi gratuitamente ad iTunes e lì automaticamente vi scarica le ultime 5 puntate. 349-238-6666, quando avete incontrato i vostri miti e vi hanno deluso, prima ho detto, che so, se avete incontrato Ligabue in un bar di Correggio, e uno mi ha scritto: io ho incontrato Ligabue in un bar a Correggio ed è regolare. Non volevo dire che avesse qualcosa che non andava. E poi non sapere chi è Alberto Camerini è di una gravità inaudita. unica scusante che sei nato negli anni 70. Allora, Camerini mi scrivono, autore, non so se autore, anche cantante di Tanz Bambolina. Sono due robe, sono due canzoni separate? È una sola, è una sola, è una sola. Tanz Bambolina e Rock'n'Roll Robot, quella, come dimenticarla. E invece, miti che non ti hanno delusi, ho incontrato Dino Zoff dal mio macellaio. Questa è una storia che potrebbe raccontare Gigi Caranzini. Ho incontrato Dino Zoff dal mio macellaio, così ho scoperto che avevamo il macellaio in comune. Abbiamo chiacchierato un po', è un mito gentile e umile. Nessuna delusione. Bene, ho avuto la fortuna di pedalare insieme a Mario Cipollini per qualche chilometro senza rendermene conto. Giorgio, è tosta non rendersene conto, perché Cipollini è un bestione di 1,90 m, biondo, che di solito urla anche quando parla. C'è, poi era arrivato un altro messaggio che dice: ho visto Pansa, Giampaolo immagino, alla presentazione di un suo libro. Mi ha fatto pena come fanno pena i vecchi che si lamentano di tutto e di tutti. Io ricordo invece di aver incontrato una volta, vabbè, lo so, si parla sempre di miti calcistici, però oltre alla foto che Tiziano Bonini ha con Roberto Baggio, io una volta incontrai Julio Cruz su un autobus, o meglio sull'autobus della squadra dopo che aveva vinto lo scudetto, e fui felice che lui mi si rivolgesse a me guardandomi. Poi però nel momento in cui il bus se n'è andato, io mi sono sentito triste, di quella tristezza che si prova quando vorresti essere amico di qualcuno e non ce la fai. Poi però ti accorgi che in realtà avvicinarti non è mai un bene. Se n'era accorto preventivamente da solo Salinger. Sapete che Salinger, dopo aver scritto Il giovane Holden e i racconti, alcune cose che sono entrate dalla porta principale nella storia della letteratura mondiale, della letteratura moderna, si è ritirato a vita privata, cioè è scomparso. Era un personaggio, di lui si avevano giusto delle vecchie foto in bianco e nero e nessuno sapeva che faccia avesse. Poi è mancato a gennaio nel 2011 di quest'anno e si è saputo qualcosa di più. Lui di fatto aveva come messo al riparo i suoi fan, aveva fatto una scomparsa preventiva, li aveva messi al riparo dalla possibile delusione che loro avrebbero avuto probabilmente incontrandolo. È come se avesse capito tutto sin dall'inizio, prima ancora che se ne parlasse, che non incontrare i propri miti, e quindi lui, per chi leggeva le sue cose, era meglio, ed era sparito. Di lui però ci si era fatto un'idea sbagliata, no? Si pensava fosse un misantropo, fosse uno che appunto rimaneva gobbo sui libri. Non era così, perché si è scoperto che aveva un amico inglese che aveva incontrato negli anni 70 e a cui mandava delle lettere. Quando questo amico è morto, la figlia ha aperto un cassetto e ha trovato queste lettere di Salinger, e più o meno si è capito che non era per niente un misantropo. Era un uomo di pessima reputazione. Quando morì, il New York Times scrisse: se n'è andato la Greta Garbo della letteratura. Bella immagine. Era Jerome D. Salinger, l'autore del giovane Holden. Aveva 91 anni, molti soldi e una casa nel New Hampshire. Detestava concedersi ai fan, ai giornali e alle televisioni. Da oltre 50 anni se ne stava alla larga da tutto, e per questo si era costruito una fama che non era sua. Gliel'avevano appiccicata addosso. Era quella di un signore che se ne va in giro pallido, pensoso, chiuso in sé. Un misantropo, un eremita, un tipo cupo e sgradevole. Ora si scopre che erano tutte balle. L'inavvicinabile Greta Garbo di Manhattan era in verità un instancabile viaggiatore e aveva una lunga serie di passioni: le donne, McEnroe e Tim Henman, il Burger King, Londra, Regent's Park, lo zoo, il teatro, Chekhov e le cascate del Niagara, e naturalmente la scrittura. In una lettera datata 1989, quando Bush sostituisce Reagan alla Casa Bianca, lui dice: dalla Casa Bianca esce un uomo ottuso e ne entra un altro. Successivamente racconta il suo amore per lo zoo, decanta l'importanza dei fast food, sottolineando la superiorità di Burger King. Altre volte parla di Wimbledon, del tifo per l'inglese Tim Henman, che lui dice ha un fisico troppo sottile e genitori ingombranti. Oppure la sua passione per i tre tenori, la sua predilezione per Carreras. Insomma, si godeva la vita. E allora, perché fuggiva dalla popolarità? Una risposta romantica la si può trovare da The Catcher in the Rye, il giovane Holden, appunto, quando fa dire a Holden Caulfield: ecco, ora sento un po' la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Fate una cosa, non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti. Sì, che è poetico, ma è poco credibile. Il motivo probabilmente era più banale. Non sopportava questa idea per cui tutto deve essere pubblico. Sceglieva il suo modo, sceglieva il suo mondo e ci stava da Dio. Tre mogli, due figli e almeno un amante nota. Non è esattamente il ritratto di un uomo solitario. Era così. Curioso, rabbioso, partecipe, umorale, persino socievole. Però diverso. Infastidito dalla ribalta, irrimediabilmente deciso a non subire gli spintoni di una folla agitata e anonima. Questo pezzo erano degli stralci di un articolo che è uscito poco dopo la morte di Salinger a gennaio sulla Stampa, firma di Andrea Malaguti, e si intitolava appunto Salinger, il misantropo gaudente. 349-238-6666, è ancora delusi dai vostri miti? Ho incontrato Mick Jagger a Londra, ho rischiato delle botte, avevo 8 anni a Rimini, Ether Parisi mi ha negato un autografo. Questa è magnifica. Francesco, ho cercato e trovato Peter Gabriel in Sardegna, gli ho cantato una canzone e lui stava portando dei fiori. Non ho capito, tu hai cantato una canzone a... vabbè. Amo i Queen, ma quando ho saputo di cosa è morto Freddie Mercury mi ha smontato, comunque rimango nel cuore. Mi sa che devi rinfrescarti le idee sul connubio tra malattia e colpa, temo. Voi siete qui, @radio24.it. Ogni tanto succedono delle cose strane. Succede che un racconto che io leggo in onda, che appartiene a qualcuno, entri in qualche modo nella vita di tutti i giorni delle persone che ascoltano. È successo lunedì, quando, parlando con Aria, ci siamo detti queste cose. Senti, invece prima ci hai raccontato di tuo marito come un democristiano per bene, no? Cosa che hai detto? L'hai presentato. Che cosa facevate entrambi? Tu insegnavi invece, giusto? Sì, ho insegnato 40 anni. Invece tuo marito era proprio un uomo politico di mestiere? Ho cominciato come impiegato e poi dopo ha fatto proprio passione politica. Ecco, questa era la chiacchierata che avevo fatto con Aria, che mi aveva mandato il racconto in cui lei con tutta la famiglia, i bambini e soprattutto suo marito risalivano il Po con un gommone. Dopo poco mi è arrivato un SMS che invece diceva così. Arriva un messaggio che non so se forse solo Aria può dirlo, se sta sentendo ancora la puntata. Ho riconosciuto nel racconto di oggi l'ex sindaco del mio paese, nel senso che sono quasi sicura che sia lui. Ogni giorno passo il ponte sull'Oglio a lui intestato. Ma pensa a te, questo omone che è nei miei vaghi ricordi di bambina. Ecco, io credevo che solo Aria potesse dirci se questo omone che era nei vaghi ricordi di bambina dell'ascoltatrice fosse realmente suo marito. E poi invece oggi ho ricevuto una mail che è di una delle figlie di Aria e di quell'omone, che dice così. Caro Matteo, è vero quello che ha detto l'ascoltatrice che ha chiamato durante il racconto di lunedì. Quell'uomo imponente, incredibilmente vitale, era proprio lui, Vittorio Sora, sindaco di Quinzano d'Oglio per qualche anno, ma prima ancora assessore alla Regione Lombardia. È giusto ricordare che ci sono state, e spero ci siano ancora, persone portate per la politica, che si sentono responsabili verso gli elettori e non verso il partito e tutti i suoi orpelli. Costantemente a contatto mio malgrado con la mediocrità di chi non sa vedere al di là del proprio interesse personale, penso spesso a Vittorio, perché l'onestà, anche intellettuale, una qualità rara. Quel ponte che solca l'Oglio tra la provincia di Brescia e Cremona è davvero dedicato a lui. Mi piace ricordare che la prima targa, molto prima di quella ufficiale, fu montata nottetempo da un gruppetto di amici desiderosi di interrompere con quel gesto eclatante un inutile balletto burocratico di carte montato tra un amministratore provinciale pronta all'inaugurazione ufficiale e un'altra restia a concedere a un politico della Prima Repubblica un tale riconoscimento. Grazie per aver dato spazio al mio irripetibile papà. Carla. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi: Tiziano Bobonini, Paolino Corleoni, Miriam Lucchetti e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Giulio e parlava di stare vicini ai propri miti. Quella di domani invece è la storia di Vincenzo e parla di familismo amorale. Ci sedemmo sopra il letto. Tirò fuori dalla cassa un candelotto, aprì la carta che avvolgeva l'esplosivo e cominciò a riempire 2 lattine di Coca-Cola vuote. Di seguito fece un buco al centro dell'impasto, mi infilò una miccia lunga 30 centimetri e poi vi aggiunse del pietrisco. Eravamo tutti e 2 sudati, mi schiacciò l'occhio e mi disse: adesso puoi andare a riposare. Ci vediamo stanotte.